Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qua in questa mattina del sabato santo, cari ascoltatori di Radio 24, e grazie a tutti coloro che continuano ad ascoltarci in diretta o in podcast. Abbiamo delle prove inconfutabili. Mario Seminero viene bloccato oramai ai capolinea degli autobus, caro Alberto inseguito dalla polizia in autostrada quando va in motocicletta, non solo perché lo hanno sentito in rastrella. Per forza, cioè, non posso andare con Uber, devo arrangiarmi in qualche maniera. Oscar, abbi pazienza. Va bene. Comunque vi ringraziamo anche questo sabato santo, noi vi teniamo compagnia tra il rito dell'ultima cena della passione e quello della resurrezione. Ci siamo noi, il momento di sospensione tra chi giace e chi invece risorge. E questa giorno è la metafora di questo paese, nel limbo, no? Dei profondi andri della... Tu dici che quindi è vero, Renzi pensa di essere Gesù Cristo, questo ce l'hai detto. Secondo me domani pomeriggio risorse, sicuramente risorge domani pomeriggio. Benissimo. Io intanto però allora non mi perdo, da qualche parte tento di trovare il filmato di quando lo hanno crocifisso perché me lo sono perso. Ma comunque, detto tutto questo, in questo sabato noi vi teniamo compagnia con una puntata in cui esaminiamo fondamentalmente ciò che sappiamo della manovra economica finanziaria e del documento economia e finanza uscito insieme al piano nazionale delle riforme in questa settimana, o meglio nella conferenza stampa non è stato presentato né il testo ovviamente del DEF, del PNR, né tantomeno del decreto di correzione del deficit di quest'anno, né le slide, però l'indomani almeno è venuto il testo del DEF insieme a un asciugatissimo piano nazionale delle riforme. Il testo del decreto verrà quando verrà, ma almeno ci sono i numeri fondamentali per capire qual è stata la strategia del governo Gentiloni Padoan rispetto alle richieste di Renzi sul deficit di quest'anno e l'anno prossimo, su quale sarà la crescita italiana asfittica e le prospettive di ripresa asfittiche, e su quali sono le scelte e i ragionamenti di fondo sottese in questo documento, che testimonia uno scontro aperto nel PD, come si vede, tra Renzi, ministri tecnici, Padoan, Calenda, e quindi il tentativo di guadagnare tempo. Vedo che l'hai chiamato il governo Padoan Gentiloni, è un lapsus o è intenzionale? No, è abbastanza intenzionale, perché è evidente che nella reazione di Renzi, ma di questo ne parleremo, c'è anche il tentativo di eliminare possibili leader di governi di transizione nel caso in cui non uscissero maggioranza alle urne. Questo è il mio criterio di lettura, ma lo faremo con ospiti. Avremo con noi il professor Francesco Daveri, avremo Alessandro Barbera della Stampa, lo avremo per la parte fiscale, perché anche di quello c'è molto da discutere, il professor Andrea Giovanardi, e quindi l'approfondimento sarà tutto su questo, ma non solo su questo, perché come sempre i compari dei conti della Belva hanno altre cosette da segnalarvi in settimana. Per esempio la questione di Uber, che ieri è avvenuta una novità, c'è stata un'ordinanza sospensiva dell'efficacia che altrimenti da Pasquetta, da lunedì, avrebbe sospeso Uber Black in tutta Italia. Come effetto di questa sentenza presa dal giudice civile del Tribunale di Roma il 7 aprile scorso. Vedremo la sospensiva, meglio che il servizio ci sia, perché quella sentenza del 7 aprile è molto discutibile. Caro Mario, a te che ti è sembrato? Manca il quadro normativo e di conseguenza si trova ampio spazio per tirare la giacchetta alla magistratura. Il problema è tornare ad un quadro normativo del 92, il che mi sembra sinceramente ridicolo. Ricordate che cosa usavamo di tecnologia nel 92 esattamente, no? Perché così possiamo farci tutti una bella risata. E questo purtroppo sono gli effetti di una politica che non vuole decidere, e di conseguenza chi diciamo si interpone per conservazione dei propri interessi a buon gioco a invocare l'intervento della magistratura. Ma certo, che Alberto, una sentenza è un po'... Molto discutibile, ecco. Anche tecnicamente, sinceramente l'ho riletta, ma ci sono gravi incongruenze sull'interpretazione economica, sul modello organizzativo, sulla natura del mercato, sulla natura dei clienti. Mi dispiace, ma affidare a giudici improvvisati dal punto di vista economico una decisione così importante, l'Italia fa la figura veramente peggiore del mondo. Siamo l'unico paese che di fatto ha espulso qualsiasi forma di innovazione sul trasporto pubblico non di linea. Italia. Mi sembra una bella notizia. Vedi che mi tocca andare in giro in moto, scusami, però, anche tu, per forza. Scusami, ma il Tribunale delle Imprese, sì, sì, la sezione delle imprese, quindi questo la dice lunga sullo stato generale del paese. Guarda, purtroppo ho riletto anche quella di Milano e devo dirti che la mancanza della comprensione fondamentale della natura del mercato, della natura della clientela indifferenziata, come se avere una carta di credito, un'app su un telefonino fosse un elemento indifferenziato. Va bene che ce l'hanno quasi tutti, ma assolutamente non è come alzare la mano però su un piazzale. Precisiamolo in termini di diritto, non solo di opinione. Una sentenza che si basa sul criterio, qualunque sia poi la norma a cui fa riferimento, cioè l'osservazione di Mario rispetto a quella del 92, che si incardini sulla nozione di una decisione assunta per concorrenza sleale, tra virgolette, come quella del giudice di Roma e di Milano, e che però non abbia gli strumenti interpretativi necessari per distinguere servizi che vengono sia per domanda che per offerta a essere offerti e domandati con criteri completamente diversi, è una sentenza che dal punto di vista di diritto risulta difficilmente accoglibile. Certo, anche perché teoricamente dovremmo applicare questa logica a tutti gli NCC, perché se dovessimo essere rigorosi, a questo punto questa sentenza impedisce a qualsiasi NCC di operare fuori dalla rimessa e fuori dal territorio di riferimento, quando, come dire, il governo e il Parlamento poche settimane fa hanno detto diamoci tempo fino alla fine dell'anno per intervenire sul quadro normativo. A me sembra francamente, oltre che intempestiva, assolutamente fuori luogo l'interpretazione data dal Tribunale di Roma. Detto questo, dal mio punto di vista c'è anche un altro tema, che è il rapporto con le leggi della concorrenza europee. Esatto. Qua si fa una grande analisi sul fatto che tutto ciò che non è espressamente previsto è proibito. Se questa è l'interpretazione della concorrenza, invece che interpretarla diversamente, ovvero ci deve essere una esplicita, chiara e diretta indicazione di eventuali prassi non consentite, qui stiamo parlando di un'interpretazione estensiva che sicuramente penalizza alla fine i consumatori che trovavano tutto questo servizio tutto sommato comodo e pratico. Io infatti me ne sono occupato anche di pomeriggio in trasmissione, perché è una sentenza che fa molto discutere, da inquadrare il quadro generale Flixbus, vedremo se ci sarà l'intervento correttivo, farmaci fascia C, tutto quello che è saltato nel disegno di legge concorrenza, i notai hanno avuto ragione su tutta la linea, gli avvocati sono riusciti a ottenere i loro freni, quindi insomma, anzi Orfini ieri ingiungeva a Calenda di levare la norma sul che verrà protratta, infatti quella per l'accelerazione del passaggio dal mercato tutelato a mercato libero, dimenticandosi che non l'ha scritta Calenda ma l'ha scritta invece la Guidi 2 anni fa. E questa è la cosa, battuta fulmicotonica, caro Alberto, sul grande evento del mio esatto, il grande evento di questa settimana non sono le traversie giuridiche e giudiziarie di Uber, ma il fatto che dopo 30 anni una grande diciamo azienda media italiana che fa di nome ASML, lo dico in inglese che fa più figo, passa di mano e i capitali stranieri, capisci? Esatto. Una congiunzione astrale. Bravo. Fra americani e cinesi strappa dalle mani di Silvio Berlusconi. Chapeau Berlusconi, che ha portato a casa un prezzo che nessuno in Italia avrebbe portato. Grandioso. Si fa a vendere una squadra di calcio a quel prezzo? Francamente io lo trovo solo straordinario. Ma questo è lo stesso Berlusconi che non voleva dare via all'Italia? No, ma questo, infatti ho fatto un tweet, ho detto cari amici della destra sovranista, ragionateci un secondo sul fatto da dove vengono i capitali per il Milan. Io trovo un segnale di attrattività del paese, almeno in mutande e a tirar palloni siamo ancora attrattivi, mi sembra, no? Ci ho detto poi che il Milan da questa storia esca con un piano industriale che passi anche i criteri dell'UEFA, che giustamente pretende l'applicazione delle regole del fair play, non è detto che queste regole passino, e insomma non sarà facile per il Milan trovare un equilibrio. Qui sul tavolo sono le solite vicende, lo stadio, il modello organizzativo, la gestione del sistema italiano dello sport, esatto, del football è un sistema da ripensare, ed è quello che ci ha portato a non avere una fila verticale dai giovani, a perdere i diritti perché non ci sono quattro squadre come in media fanno gli spagnoli e i tedeschi che lottano nelle coppe, il che significa più diritti televisivi, eccetera eccetera. Però in tutto questo, secondo me, in politica no, ma come manager e proprietario di una squadra di calcio, anche nell'uscita, nello stile che ha avuto, ma nel prezzo che ha strappato, Berlusconi merita insomma una certa qual considerazione, cari amici sovranisti della destra. Non ho visto partire sottoscrizioni da professori sovranisti a favore del Milan italiano, chissà come mai. Ma serviva un fondo Atlante per salvare il Milan, secondo me, contro l'aggressione dei capitali stranieri. Oddio, io mi domando perché non ci hanno pensato anche quelle delle fondazioni. Ma benissimo, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia, le vesta, le tempi di scena. Monti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, non mi preoccupare. Ed eccoci qua anche in studio in questo sabato santo a tenervi compagnia, cari ascoltatori, la rubrica in cui si fa il punto macro della settimana con Mario Seminerio. Allora, Mario. Ma che dire, abbiamo avuto negli ultimi giorni e nelle ultime settimane sul palcoscenico mondiale tutta questa splendida collezione di retromarce di Donald Trump. Coerentissimo. Che sta diventando veramente il mio idolo, perché praticamente... La madre di tutte le bufale, Moab, Mother of All Bombs, abbiamo sbagliato forse. Praticamente si sta rimangiando tutto. Allora, lasciamo stare la riforma sanitaria. Lasciamo stare la riforma a rimangiare, dai. L'hanno fatta a rimangiare, lasciamo stare la riforma del fisco. Adesso con la Cina sta facendo veramente i numeri, perché praticamente aveva detto: dal primo giorno in servizio, in ufficio, in funzione, dichiarerò la Cina un manipolatore valutario. Dopodiché gli hanno spiegato che la Cina si sta svenando per impedire che il cambio dello yuan crolli e alluvioni il mondo di manufatti cinesi, e ha detto: beh, sai che c'è, magari... ma per me la Cina non è un manipolatore valutario. Poi se magari mi danno una mano con la Corea del Nord, o rispetto alla Corea del Nord, dove lui aveva detto alla Cina e aveva ribadito: ma noi possiamo anche andare da soli, colpiamo da soli. Quindi c'è stata questa splendida giravolta. Ieri l'altro ne ha detta un'altra ancora più sfiziosa, dicendo: vi devo confessare che a me piacciono i bassi tassi di interesse, che il dollaro è troppo alto, ma in parte posso capire perché è merito mio. Io ho dato una tale scossa di ottimismo agli animal spirits degli americani che adesso ci stiamo apprezzando troppo il dollaro e lo dobbiamo tenere calmo. Notare che questo è lo stesso personaggio che durante la campagna elettorale diceva che lui avrebbe cacciato Janet Yellen, o nella maniera più soft, non l'avrebbe confermata tra un anno, perché Yellen teneva, secondo lui, i tassi di interesse artificiosamente bassi per tirare la volata alla Clinton e agevolare Obama. Adesso viene fuori a dire che a lui piacciono i tassi di interesse bassi, e non poteva essere altrimenti, visto che parliamo di un palazzinaro, che quindi per i palazzinari, i costruttori, diciamo in senso buono, i tassi di interesse alti sono veleno. Visto che parliamo di una persona che ha avuto problemi con finanziamenti, con le banche e quant'altro, è ovvio che a lui piacciono i tassi di interesse bassi. Ma però... anche il nostro governo ha tenuto a precisare che i tassi di interesse bassi sono altamente desiderabili per mantenere quello straccio di equilibrio. Non esatto, sei d'accordo? Esatto, sì, no, ma assolutamente. Ma i tassi di interesse bassi piacciono a qualunque autocrate, esatto, e a qualunque magliaro circoli, esatto, per strada, diciamo. Poi, a parte che poi ci sono quelli che soffrono di illusione monetaria, che non distinguono i tassi di interesse nominali da quelli reali. Alcuni di questi fanno carriera come no euro. Però, a parte ciò, possiamo, prima di addentrarci in un'ampia sezione sul DEF, possiamo fare un riferimento pasquale, nel senso che nei giorni scorsi la profonda sapienza economica della nostra classe politica ha portato alla presentazione di una proposta di legge a primo firmatario Giacomo Stucchi della Lega Nord, per scaricare dalle tasse gli acquisti di alimentari sani, che fanno parte di una dieta e di un'alimentazione sana, preferibilmente mediterranea. Ma perché voleva essere la controparte della tassa sulla soda, cioè delle bevande gassate, che per fortuna in una settimana è scaduta, però, no? Quella lui dice, però, allora io detraggo quella ora sana. A parte il contrasto di interesse, che è notoriamente saputo che è una stronzata, no, ma c'è anche, che cosa c'è anche? C'è l'olio d'oliva e le arance. Allora, cosa succede, cari sorcini e scienziati all'ascolto? Che le arance vengono dal Nord Africa e dalla Spagna, l'olio d'oliva viene dal Nord Africa e dalla Spagna. Quindi, se questo è un tentativo, uno, di ingraziarsi gli elettori del sud, che sono i coltivatori, eccetera. Due, di fare del protezionismo straccione, non si rivolge molto esattamente contro, perché i prodotti della dieta mediterranea, ho una notizia clamorosa per voi che vi farà sobbalzare, non sono esclusivamente prodotti in questo paese. Lo so. Quindi questa è una piccola citazione pasquale per dire come, che le idiozie sono sempre quando, all'ordine del come giorno. Come quando ci fu il tentativo di mettere i dazi, vi ricordate, agli oli di importazione tunisina, esatto, per scoprire poi che erano diversi grandi, medi e grandi imprenditori italiani di settore che hanno investito esattamente in quel paese. Poi parliamo del grano dove non abbiamo l'autosufficienza di produzione. Va bene. Dai, ma veramente proprio stiamo scendendo le scale della disperazione. Io devo dirvi che ho trovato anche molto gustoso il cambio 180 gradi di Trump sulla NATO, che esatto, è avvenuto esattamente anche questa settimana. Non è obsoleta. Verde Senato e ha detto ma l'ha detto solamente perché io poi apprezzo questa sua simpatica capacità di non fare finta come fanno i politici italiani di aver detto il contrario. Cioè lui lo dice: vi ho detto che era obsoleta? Bene, non è più obsoleta. Ha detto totalmente così. Devo ammettere che se fossi un ambasciatore di paese nel Consiglio NATO e sentissi una cosa simile non so bene quale sarebbe la reazione. Però questo aiuta a capire anche perché è cambiato l'atteggiamento verso la Russia, mentre come evidente il segnale di questa settimana sono in realtà al di fuori del muscolo, canale molto positivo con la Cina e muscoli nei confronti della Russia. Vedremo come questa cosa evolverà. Muscoli nei confronti della Russia significa che l'America comunque ha bisogno anche di quella NATO che spende poco che c'è oggi. Questo vedremo. Per il resto i generali, soprattutto McMaster, stanno applicando alla lettera quello che avevano scritto come critica all'amministrazione Obama. Cioè i 59 Cruise e la Moab sono non tanto armi scelte per l'impiego tattico. Per questo io avevo detto fin dall'inizio 59 Cruise per quella pista non valgono la pena. La Moab conferma. Questa è non tattica militare, è strategia di comunicazione, perché è il segnale dato al mondo intero, ai grandi partner, alla Cina, alla Russia, alla NATO, eccetera. La scelta di questi maxi strumenti che finiscono su tutti i giornali mondiali in pochi minuti e ci restano è l'idea di ribaltare quell'idea di Stati Uniti associata ad Obama, al di là delle sue intenzioni, cioè incerti, statici, inerziali, contraddittori. Dove ci porti? Tutto da vedere, naturalmente. Però per il momento assumiamo che la politica estera di difesa la stanno facendo generali come McMaster e non gli ideologi che escono dal Consiglio di Sicurezza Nazionale, sia Bannon che la vice Consiglio di Sicurezza Nazionale, che esce anche lei, diventa ambasciatrice a Singapore. Anche qui i generali stanno facendo un repulisti, perché sta cambiando radicalmente le posizioni di Trump. È quella stessa amministrazione di Washington, è quello stesso apparato di burocrazia che Trump aveva promesso di eliminare, che in realtà sta dimostrando di avere pienamente il controllo, esatto, delle scelte. E tutto sommato, Oscar, possiamo lamentarci di questo? No, io non do giudizi, mi limito a osservarlo con grande attenzione, perché l'evoluzione sul campo dell'amministrazione sta cambiando, come vedete, radicalmente. Cambia sulla politica dei cambi, sulla politica dei tassi di interesse, sulla valutazione dei grandi partner, distingue sugli scacchieri internazionali. Diciamo, l'avevamo capito, l'avremmo appreso solo con la vita e il tempo, che cosa sarebbe stata davvero. Però i segnali sono apparentemente su alcuni terreni molto importanti meno irresponsabili di quanto sembrassero. Però allora sì, può essere, con buona pace di alcuni fessi, soprattutto italiani, che pensavano che Trump, esatto, c'è ancora qualcuno che si fa chiamare il trumpiano italiano, c'è qualche politico, tra un po' chiederanno, supplicheranno ai giornalisti di smetterla con queste etichette perché se ne vergogneranno profondamente, però io dico, posto che alcune decine di Tomahawk non si negano a nessun dittatore, e lo faceva anche Bill Clinton, e ricordiamo perfettamente, il problema è cosa succede allo step 2, 3, 4. Non c'è dubbio. No, su questo, ripeto, non sto né inneggiando né dicendo, dico solo, ci sono segnali che di un'amministrazione che su terreni decisivi si muove con tutt'altra cosa rispetto alle tante cose che aveva detto in campagna elettorale, che se applicate alla lettera sarebbe stata l'esplosione rapida. Ecco, questo è quello che io dico. Meglio avere l'atteggiamento che ha adesso nei confronti della Cina, per essere chiari, che apprezzo ancora di più perché questa settimana è uscito fuori che quello che noi non sapevamo, cioè dai resti del vettore che a febbraio dell'anno scorso ha portato in orbita un satellite nordcoreano, l'intelligence coreana che è andata a ripescare i resti ha dato la prova che i cinesi conoscono già da 6 mesi, perché è stata portata alla loro attenzione del fatto che componenti avioniche molto avanzate di come si dosa il combustibile solido in quel razzo, che è lo stesso tipo di razzo che è un vettore balistico a media portata per la Corea del Nord, sono componenti di avionica modernissime, tutte made in China. tutte le valvole a pressione per il raffreddamento sono tutte made in China. Ecco, quindi i sudcoreani hanno dato agli americani, che hanno dato ai cinesi, la prova provata, cioè, ancora state collaborando su un settore molto avanzato come la missilistica, vettore di testate. E questo spiega perché il tono reciproco sia impostato anche a un tono diverso da quello che Putin ha riservato all'inizio, sia pur poi incontrando Tillerson anche lui. Quindi insomma, speriamo che questi fili non si interrompano. Ma torniamo a cose più a noi vicine, per così dire, e torniamo un secondo all'Italia. Perché, caro Carlo Alberto, adesso ti do un minuto per difendere una cosa che poi io criticherò. Perché questa decisione è assunta su due piedi di fare l'incorporazione, non più la fusione, e far vedere lo Stato. Un conferimento di capitale. Abbiamo conferito qualche migliaio di chilometri. Adesso spiega, abbiamo, attenzione. Spiega in un minuto perché questo gigante che a te sembra così positivo per fare 10 miliardi di fatturato, 7 miliardi di dotazione di investimenti, tanto per cominciare, eccetera, secondo te sia positivo? Ma è positivo perché mette sul tavolo un progetto di integrazione di tutte le infrastrutture logistiche del paese, che poi andrà ridiscusso in termini ovviamente di un'integrazione verticale da prevenire, ovvio, ma che può fare molte sinergie sui piani di investimento, sui piani infrastrutturali, tante sinergie sulla manutenzione, e finalmente getta le basi per un modello di tracciabilità e governo della rete infrastrutturale del trasporto orientato alla digitalizzazione, che è nella testa di Mazzoncini e di IFS. Quindi io la vedo come una premessa interessante, poi la giudicheremo dai fatti, però non è in sé da come dire, da condannare dal mio punto di vista. Potrebbe portare a risultati molto interessanti. Io sono di opinione radicalmente opposta. Il bello di questa trasmissione è che vi offre opinioni capaci educatamente di fronteggiarsi. C'è una ragione per la quale al mondo i grandi gestori di infrastrutture e di servizi ferroviari, e già questo non è detto che debbano andare insieme, le Ferrovie dello Stato sono questo invece, cioè c'hanno RFI, l'infrastruttura, e c'hanno il trasporto sia a servizio universale sia aperto alla concorrenza, e invece i gestori di concessioni autostradali non vanno insieme, perché non vanno insieme nel mondo questa roba qua. Non è che Deutsche Bahn fa la concessione autostradale e SNCF in Francia. Ecco, perché questo maxi gigante pubblico, che serve appunto a ingigantire l'impatto degli investimenti pubblici nel paese, restringe l'area per gare, perché alza l'asta per chi vuole partecipare da concorrente alle gare, e diventa sempre più una integrazione verticale di aree che sono in settori del tutto separati, rende opaco, come è ovvio, il meccanismo di formazione dei prezzi di aggiudicazione. Terza cosa, allunga ulteriormente le concessioni, perché siamo in un mondo tutto pubblico a quel punto. Quarto, estende, moltiplica pericolosamente, e lo dico conoscendo il bilancio di Ferrovie dello Stato su questo, e come Bruno Leoni siamo andati in contenzioso su questo, c'è una parte non dichiarata, poco, molto opaca, di sussidio pubblico al servizio universale e alla rete, che viene data dal contribuente ogni anno, che già era improprio considerare in quanto sussidio ipotetico alle attività aperte alla concorrenza al mercato di FS, così adesso lo si espande anche invece nel tratto autostradale e nei settori di competenze dell'ANAS. Quindi sono queste quattro ragioni, sono di mercato, tutte con la M maiuscola. Sul sussidio ti posso seguire, sulle altre tre sono un processo alle intenzioni, scusami, si possono correggere, vedremo. E siccome la sorveglianza dell'autorità invece può tranquillamente prevedere la separazione contabile, trasparenza, scusa, non è proprio necessario che una cosa grande sia illeggibile. Se non fossimo in Italia potremmo riuscire. Non, fate anche voi. Non siamo riusciti a imporre l'antitrust da 14 anni chiede alla RAI di separare ciò che si finanzia col canone e ciò che no, e la RAI fa marameo. Che cosa vuoi che separino? Mettino insieme apposta. Però sì, tu hai ragione. Però è colpa dell'antitrust che non si fa rispettare, cioè adesso una bella multa e il problema la risolviamo. Cioè, non è che questo vuol dire che non possiamo investire in tecnologia, Carlo, solo Alberto, perché siamo in Italia. No, allora, io ti dico, noi abbiamo segnalato il problema. Vedremo il tempo a chi dà ragione, tutto qua. Io non voglio fare processi. Dobbiamo tenerci da però conto, mi dà molto fastidio per le prossime belle, che una no? scelta di questo tipo venga assunta così in 5 secondi, nessun confronto pubblico. Quello in Italia. Sì, quello sì, una roba da ladri. Mi dispiace. Diciamo padri. Un'occasione perduta per spiegare invece un modello di mobilità integrata, ecco, che magari al paese, appunto, poteva anche essere utile per, cioè, capire. Secondo me una cosa simile, il ministro Del Rio, che è molto a favore, organizzava due giorni con un po', no, non i Giannino che non contano un cazzo e sono dei maverick, con i veri esperti, a idee contrapposte, per analizzare, certo, questo era i rimedi ai possibili problemi. Tutto qua, sì, questo mi sarei non soltanto, ma per aprire un dibattito sulla mobilità sostenibile e integrata in questo paese. Va bene, torniamo tra un minuto. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Della belva. Ed eccoci tornati qui in studio questo sabato santo insieme ai compari di Conti della Belva, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Ecco, e ci hanno raggiunti per darci le loro opinioni sul DEF, sul Piano Nazionale delle Riforme. Non conosciamo ancora i dettagli del decreto correttivo del deficit e del mitico tesoretto dei 47,5 miliardi cui stenderei però un pietoso velo, perché nella storia della finanza pubblica italiana non è mai esistito un governo che abbia creduto di ipotecare una cifra così elevata, di cui naturalmente si è apposta la spesa, non c'è alcun finanziamento nei 16 anni a venire, è una roba che parla da sola come annuncio elettorale. Però detto tutto questo, invece, di tutto il resto, dei numeri fondamentali, del contrasto tra governo e segretario del PD e soprattutto del quadro che ne se ne deduce, crescita asfittica, disoccupati che restano a doppia cifra, scelte di fondo annunciate per anni come l'IRPEF andata via che non ci sono più, debito pubblico che resta appeso a una prospettiva con il cui inesaurimento difficilmente credibile, ma comunque se va bene si stabilizza, certo non può scendere. Questo è il quadro in cui chiediamo ai nostri due ospiti, che ringraziamo di essersi resi disponibili per questo sabato santo, il professor Francesco Daveri, che insegna politica economica all'Università Cattolica di Piacenza. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno. E Alessandro Barbera, giornalista della Stampa, che è stato tra quelli che hanno tirato più scoop nella settimana in cui arrivavano le misure, compreso lo scoop sull'orrenda misura che piace al professor Carlo Alberto Canale Maffè, qui di ANAS e Ferrovie, di cui abbiamo parlato prima e contro la quale io milito in argomenti invece liberisti. Grazie Alessandro Barbera. Grazie a voi, ciao. Allora, professor Daveri, ci dice la sua impressione generale, prima di qualche domanda che poi magari ci riserviamo di fare, sul quadro che esce da questo DEF? Ma mi sembra che il DEF del 2017 prosegua chiaramente nel solco dei DEF precedenti e degli orientamenti di politica economica seguiti dal governo Renzi, che era venuto prima del governo Gentiloni. Vuol dire che dal punto di vista contabile, algebrico, prosegue una lenta diminuzione del rapporto deficit in proporzione al PIL. In realtà ci sarebbe un'accelerazione nel 2018, nel senso che scenderebbe di un punto percentuale quasi, dal 2,1 all'1,2%. Questa discesa però è ottenuta con una specie di giochino di rinnovo e disattivazione anno per anno, una all'anno, delle cosiddette clausole di salvaguardia, ovvero sia degli aumenti automatici di imposte indirette che servono per, da un lato, in primavera rassicurare Bruxelles sul fatto che qualche cosa si farà per mantenere, per rispettare gli obiettivi che si è dati di deficit, salvo poi far arrivare la, quella che una volta si chiamava finanziaria, poi legge di stabilità, adesso legge di bilancio complessiva, e quando arriva questo, il momento dell'autunno, invece le clausole di salvaguardia cadono come le foglie e quindi vengono rimpiazzate con qualche altra cosa che non produce gli stessi risultati dal punto di vista macroeconomico, perché insomma, le tasse indirette hanno degli effetti, le cose che le rimpiazzano degli altri, però che comunque consentono di mantenere più o meno il rapporto deficit-PIL al livello che era stato stabilito, magari con qualche sforamento, come è avvenuto negli anni passati, ma che finora non ci hanno meritato nessuna procedura di infrazione. Quindi questo è il quadro generale. Poi c'è il debito, l'altra voce che invece è sempre mancante, nel senso che di anno in anno si sposta in avanti la riduzione del rapporto debito-PIL, che però è un po' il cruccio più grande per chi ci guarda da fuori, cioè Bruxelles da un lato e i mercati dall'altro. Lorenzo Benismaghi, Lorenzo Benismaghi, proprio su questo punto del debito che lei ha appena toccato, con due interventi nell'ultima settimana ha, per così dire, formalizzato con crescente energia un suo dubbio, una sua perplessità molto forte, quella che lui definisce la perplessità più forte che ho sulla finanza pubblica attuale italiana, nel quadro di una prospettiva di esaurimento del QE della Banca Centrale Europea. Noi tutti abbiamo, per così dire, fatto finta di non vedere che quello è il problema, qualunque cosa avvenga poi nel resto dell'Europa, i francesi, la Germania, eccetera, che per l'Italia rappresenta il rischio che si apra davvero una prospettiva di insostenibilità a giudizio dei mercati del debito pubblico italiano, stante che i tassi di crescita restano asfittici, la partecipazione al mercato del lavoro, discontinuità positive non ci sono, e quindi corriamo un enorme rischio. Lei condivide, professor Daveri, questo giudizio? Ma forse non sarei così pessimista, perché dopo tutto finora noi abbiamo sempre rispettato un po' de tacco e de punta, cioè in qualche modo il fatto di rimborsare anno dopo anno gli interessi sul debito, e quindi accettando delle tasse sempre più alte. Però i mercati da fuori dicono: vabbè, se voi italiani siete fatti così, vi piacciono tante tasse, tanta spesa pubblica, affari vostri, crescete di meno naturalmente a causa di questo, però insomma i gusti sono gusti in qualche modo, l'importante è che si rispettino questi, cioè, i vincoli dati dalla sostenibilità o non sostenibilità del debito. E qui si tratta di guardare a poche variabili, perché è vero che gli interessi probabilmente saliranno. Però dall'altro lato c'è anche da dire che la somma di crescita del PIL più crescita dei prezzi è un po' più favorevole da questo punto di vista rispetto agli anni passati. Quindi al netto di tutto non vedo una situazione di insostenibilità di rischio, peggiore di quella degli anni scorsi. Ecco, se non siamo andati in default nel 2012, perché andarci adesso? Sarebbe una stupidaggine. Alessandro Barbera, è chiaro, chiarissimo. Però Alessandro Barbera, chiedo a te adesso di introdurre invece la variabile, e poi sentiamo cosa ne pensa il professor Daveri, cioè la variabile, diciamo, su cui per forza noi giornalisti siamo dovuti andare, sapendo che Renzi aveva chiesto un obiettivo di deficit per quest'anno e per l'anno prossimo diverso, e che il sottostante del ragionamento politico, il motivo per cui insomma ha un po' affilato la lama contro Padoan, è stato quello di dire: tu tieni il 2,1 invece che il 2,4 e fai l'interventino quest'anno che io non volevo, e soprattutto parti con un DEF che indica il deficit l'anno prossimo, non credibilmente, ma comunque per tener fede all'impegno europeo, all'1,2% del PIL l'anno prossimo, però fai i conti senza l'osta. Io le elezioni le devo vincere, non è credibile, entrambi con le cifre non sono credibili, tu invece scegli l'ortodossia europea. Perché Barbera si è comportato così, Padoan? Primo perché ha avuto dalla sua parte Gentiloni, e questo ormai mi pare un fatto acclarato, cioè Gentiloni si sta progressivamente diciamo liberando dell'ipoteca renziana. Paolo Gentiloni è a Palazzo Chigi grazie a Matteo Renzi, ma una volta seduto su quella poltrona ha una responsabilità nel fronte del paese. E l'altra ragione, è per la verità, è perché loro sperano di ottenere ancora flessibilità, cioè la scelta è stata politica e tattica. Tattica nei confronti dell'Europa, perché questo diciamo gli permette di evitare oggi innervosire la burocrazia europea, i commissari che stanno cercando di lavorare a favore dell'Italia, in nome del fatto che di quell'autunno c'è una forte, dicono da Bruxelles, molti paesi, pare siano addirittura già 10, che stanno spingendo in maniera molto forte per ottenere una revisione di alcuni parametri sostanzialmente sulla base dei quali viene fatto il cosiddetto calcolo dell'indebitamento strutturale. Se così fosse, se questa linea dovesse passare, naturalmente questo ha come presupposti che vincano Macron in Francia e rivincano la Merkel o Schulz in Germania. Se così dovesse avvenire, si dice che fra governo e commissione c'è già un accordo non scritto per il quale si potrebbe arrivare ad un deficit che potrebbe oscillare fra l'1,6 e addirittura l'1,8%. 1,8%. Però Padoan dice: io intanto mi attengo alla linea di responsabilità, poi si vede. Ecco. Punto. Questa è una scommessa, perché in realtà non è detto che questa linea davvero passi. Quindi per il momento è una scommessa, mettiamola così, un po' al buio. E però allora qual è il punto? Perché questo è un punto fondamentale. Perché allora a quel punto partire da 1 e 2? Perché tutto sommato l'1 e 2 è una forma di assicurazione sulla vita per il governo e per lo stesso paese. Perché se per una qualche disgrazia ci dovesse essere una crisi di governo, qui poco importa stabilire se sarà un fuoco amico o qualche incidente parlamentare di diversa natura, ma se ci dovesse essere e si dovesse, ci si dovesse trovare nelle condizioni di andare a votare, beh, l'unica garanzia per evitare le conseguenze di cui parlavi poco fa è certamente avere di fronte all'Europa un impegno da mantenere. Allora, io sono molto d'accordo, la linea delle responsabilità, torniamo tra un minuto però col professor Daveri, perché c'è anche un altro argomento. Renzi, poi l'ha scritto Corriere della Sera, l'ha scritto Marros Corriere della Sera, però Renzi dice: cari miei, vi state dimenticando che noi dobbiamo arrivare entro fine anno con una posizione forte italiana sulla decisione fiscal compact nel trattato o fuori? Caro Padoan, stai fingendo di dimenticare che io sono per dire fuori, e per questo chiedevo deficit in più. Sentiamo il professor Daveri tra un minuto. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Eccoci qui tornati in studio con i compagni dei Conti della Belva, i nostri ospiti, il professor Francesco Daveri e Alessandro Barbera. Avete sentito il giudizio del professor Francesco Daveri sui numeri complessivi, insomma, di deficit, debito e crescita, continuità, insomma, senza strappi, ma non condivide il professor Daveri il giudizio sul rischio davvero elevato di riproposizione di una crisi di sostenibilità del debito pubblico, che pure certo non ha discontinuità per immaginare di vederlo scendere. E Alessandro Barbera ci ha spiegato la sua interpretazione sul fatto che Gentiloni e Padoan comunque hanno scelto una via delle responsabilità di fronte a una via che però Renzi, dico, chiedeva come più realistica per mettere il PD in condizione di arrivare primo al voto, qualunque sia la data. Primo non significa in grado di avere poi una maggioranza coesa, questo si vedrà sulla legge elettorale, però significa il primo partito, cioè quello a cui il Presidente della Repubblica deve rivolgersi per dire: vediamo secondo te come si fa. Professor Daveri, ha in qualche modo ragione chi dice che si sta sottovalutando la scelta che bisogna fare sul fiscal compact entro fine anno, oppure no secondo lei? Io il fiscal compact l'avevo un po' considerato tra le cose che ormai abbiamo approvato e con cui bisogna fare i conti. Anche noi, però pare che alcuni dicano di no. Infatti, anche perché torna comunque sul tavolo della politica europea l'eventuale riformulazione di questa, insomma, delle misure che viceversa dal punto di vista logico fanno parte di ogni unione monetaria, cioè gli Stati Uniti hanno il dollaro e gli stati degli Stati Uniti hanno una qualche regola che stabilisce che loro non possono fare deficit, i singoli stati degli Stati Uniti, se non in circostanze eccezionali. Il fiscal compact si può discutere sui dettagli, su, non so, insomma, tenere fuori qualche voce appunto che consenta di fare più investimenti, ammesso che sia sempre una cosa buona e giusta fare gli investimenti pubblici a differenza di altre voci di spesa, che non è sempre chiaro, però insomma una qualche regola di questo tipo ci vuole. Si può anche togliere il fatto che ci siano conseguenze legali dal fare spostamenti da questo, lasciamo fare magari i mercati che giudichino loro, però anche i mercati non sono infallibili. No. Insomma, non è che sistemando questa regola in un altro modo o collocandola fuori dal trattato riescono a evitare le conseguenze di queste regole che devono esistere dentro esistere. Beh, magari bisogna aggiungerci delle altre cose, ma si fa meno anche di queste, è come dire che insomma viva Le Pen o Mélenchon e esplode tutto, cioè si fa meno di una qualunque architettura comune, non è che resta un euro senza difetti, non c'è più neanche quel po' di convergenza di finanza pubblica. Io la penso, che dici Mario, non la pensi così anche tu? No, io sono d'accordo, cioè io non riesco a capire, ho visto l'atteggiamento di Renzi molto aggressivo del tipo: se qualcuno pensa che il fiscal compact possa essere definitivamente inserito nei trattati ha sbagliato tutto, sì. And so what, mi viene da dire, cioè che cosa proponiamo come alternativa? Perché io temo che Renzi sia convinto che si possa ogni benedetto anno fare deficit un po' più dell'anno prima, potendo contare su sostegni eccezionali e irripetibili della congiuntura e della BCE, e dopodiché qualche santo ci aiuterà, perché tutto sommato noi siamo l'Italia, no? Abbiamo lo stellone, qualcuno deve venire ad aiutarci. Ma questo è il problema, Mario, che secondo me qui si fanno i conti senza l'oste che si chiama mercato, esatto. Dove non c'è nessun tavolo dove battere i pugni. Quindi volevo chiedere a Alessandro se tutto sommato la tattica messa in campo da Padovan e da Gentiloni non tiene conto proprio anche di questo fatto, che la controparte negoziale più difficile non sono gli euroburocrati, come li chiama qualcuno, ma sono gli investitori di tutto il mondo, che non guarderanno con occhio benevolo in realtà questo atteggiamento. Quindi chiedevo ad Alessandro, scusami, ma a settembre non è che qualcuno va a negoziare con i mercati internazionali e batte i pugni sul tavolo? Il punto è proprio questo, cioè io penso che banalmente spesso, e questo è uno di quei casi, l'esigenza della politica purtroppo non fanno i conti con la realtà, nel senso che Renzi ha una legittimissima un legittimissimo problema, che è quello di non perdere le prossime elezioni. Gli suggerirei di occuparsi più di legge elettorale che di manovra finanziaria, diciamo, in questa fase, ma questo è un consiglio non richiesto. Dopodiché la cosa che veramente forse Renzi non ha colto fino in fondo è che nel 2018, nel corso del 2018, la fine del programma di quantitative easing ci pone di fronte a questioni veramente imprevedibili, perché è vero ed è probabile che Macron vinca in Francia, io qualche euro ce lo scommetterei, così come l'ipotesi che vinca Schulz in Germania. Posso anche immaginare che la pressione perché si rivedano un po', diciamo, si allarghino un po' le maglie dei saldi strutturali, lo spazio probabilmente ci sarà. Il problema è che comunque l'anno prossimo le condizioni, la finestra di opportunità che è stata aperta per tutta la durata del governo Renzi non ci sarà più. Ecco, io temo che Renzi non abbia capito fino in fondo. Sentiamo come la pensa il professor Daveri su questo. Io vi ricordo che noi abbiamo avuto anche la clausola degli investimenti, tranne poi appurare nella contabilità pubblica che gli investimenti 2016 sono diminuiti, abbiamo, quelli esatto. pubblici però abbiamo 47 miliardi da qui al 2032. Però sentiamo che ne pensa il professor Daveri di queste considerazioni, che sono più politiche, quindi è improprio chiederglielo, però che hanno a che vedere con come immagina i tempi degli esami, per così dire, le reazioni dei mercati. Sì, in effetti gli esami poi a un certo punto arrivano e notoriamente non finiscono mai, per cui questo è ciò a cui bisogna rassegnarsi. Effettivamente probabilmente Renzi si può vedere che o sottostimi queste cose, o magari una versione benevola potrebbe essere: spera di vincere le elezioni con una maggioranza parlamentare che sia più amica di quella che ha avuto finché è stato al governo, e a quel punto magari potrà essere un po' meno così attento al consenso popolare, all'ultimo euro di spesa pubblica e di bonus che consentiva alla fin fine di tenergli il paese un po' più vicino rispetto a quanto fosse un Parlamento che magari era stato eletto da qualcun altro, e quindi forse con un Parlamento più amico uno può sperare che adotti almeno in modo più determinato delle politiche che ci consentano di stare in Europa nel modo giusto, ovvero sia senza tentare di battere in modo... Speriamo, strano, professore, perché per il momento mi sembra che lavorino tutti per i 5 Stelle. Devo dire che questa è la mia impressione, poi non so, però lo dicono per il momento i sondaggi non mi fido. Come infatti, non so se condividere l'ottimismo su Macron, Alessandro, e attenzione che il fenomeno Mélenchon porta alla possibilità di un scontro al secondo turno. Comunque, Oscar, comprarsi consenso con la spesa pubblica non ha funzionato. Non ha detto questo, professore. Non ha detto questo, ha detto un'altra cosa, e non facciamogli dire cose diverse. Io ringrazio intanto il professor Daveri e Alessandro Barbera. Nel blocco seguente, quello fiscale, partiamo da un problema, perché venerdì è uscito il dato tragico della produttività italiana nel 2016, mamma mia, che ha a che vedere con gli incentivi e disincentivi della parte delle entrate, non solo su quello, ma però certo a vedere meno 1,2%. Mio Dio, torniamo tra un po'. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa unica. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci qui tornati questo sabato santo dopo il giornale radio delle 11 con i compari dei Conti della Belva, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Poi per telefono ci raggiunge nell'ultima parte il nostro imprenditore della compagnia Renato Cifarelli. Abbiamo sentito i giudizi del professor Daveri e di Alessandro Barbera sul DEF, i numeri complessivi, la tensione politica tra Renzi che chiedeva più deficit ma anche con una spiegazione politica, le prossime elezioni, e anche un giudizio diverso sull'Europa rispetto alla scelta di responsabilità fatta, diciamo così, prudenziale, perché responsabilità sarebbe avere numeri che poi stanno in piedi con misure che davvero consentono di credere che facciamo 1,2 deficit l'anno prossimo. Diciamo di diplomazia responsabile. Sì, di diplomazia responsabile. Io dico semplicemente dare un calcio alla lattina. Questo è un calcio questo... diplomatico. Ho capito. Però detto questo, però guardate, il dato su cui abbiamo chiuso prima il giornale radio è un dato che va ripetuto. È abbastanza raccapricciante. Il valore aggiunto per ora lavorata nel 2016, come informava l'Istat nell'aggiornamento delle tabelle, è meno 1,2%. Nel 2015 fu meno 0,2%. Quindi c'è stato un tracollo della produttività per ora lavorata. Cosa vuol dire questo? Che questo paese si sta scavando la fossa. Già. Questo vuol dire, e null'altro, non solo, ma questo paese sta dimostrando di avere un mainstream culturale abbastanza straccione, tale per cui è iniziata la crociata contro la tecnologia, le nuove tecnologie, le innovazioni istituzionali, ogni cosa che determini recupero di produttività. Stiamo facendo una crociata, esibendo un dato di produttività del lavoro del 2016 che è semplicemente raccapricciante. Voi non vi rendete conto, forse non tutti tra voi si rendono conto, ma con questi numeri noi stiamo condannando il paese ad un futuro di autentica miseria, a prescindere da eventuali redistribuzioni, perché la redistribuzione è in capo alla politica, con i vincoli ambientali di contesto competitivo e globale. Ma non fare nulla o continuare a invocare la concorrenza sleale per tutelare lo status quo, perché la torta è sempre più piccola, si restringe ed è oramai dichiaratamente irrancidita, tossico-nociva, è la ricetta migliore per fare una gran brutta fine. Sì, noi siamo proprio ultimi in Europa, mentre l'Italia era stagnante, addirittura negativa, il resto d'Europa cresceva, non tantissimo, cresceva a cifre ragionevoli, e questo è vero, ed è poi la spiegazione di un PIL soffocato. È un PIL soffocato, la componente demografica, altra componente della produttività, cioè, è quella che è, e il rendimento del capitale è quello che è, il rendimento di intangible in Italia è quello che è, se guardiamo, voglio dire, in prospettiva di solo, di multifattoriale. E su questo io penso che non è che quella di Mario Seminerio che avete appena ascoltato è un'opinione, è purtroppo l'unica considerazione che si può svolgere, e in tutto questo noi diamo calci all'apertura al mercato in settori, sul mercato domestico, di offerta dei servizi, che sono quelli senza il morso della concorrenza che concorrono in maniera più significativa agli standard di andamento della produttività più bassi. Capite? Non ci vuole una grande intelligenza per posso darti i numeri, se cose, l'Italia però... ha fatto in questi 20 anni lo 0,3% di crescita media, la Spagna ha fatto 0,6, la Germania 1,5, la Francia 1,6, la media europea è 1,6, cioè per farvi capire, noi stiamo crescendo a cifre che sono una frazione, un sesto della media europea. Pazzesco, ragazzi. Allora, perché questo? Perché questo è il quadro nel quale effettivamente la leva fiscale, fino a questo momento abbiamo parlato, la spesa, la cosa ridicola del programma, del tesoretto, gli obiettivi di deficit, lo scontro sulla griglia europea in cui tutto questo andrà a cadere, vediamo cosa succede in Europa, il fiscal compact e così via. Però è sparito dall'orizzonte intanto l'intervento sull'IRPEF che vi avevano promesso, ci avevano promesso per 2 anni, io non ci credevo, ma ci zittivano dicendo che eravamo dei gufi ad avere dei dubbi, non ci sarà. Gli interventi fiscali nel decreto che arriva di correzione quest'anno sono i classici degli interventi all'italiano, sull'alcol, su giochi, l'intervento sull'IRPEF cosette. Obbliga la politica a gestire una tassazione erga omnes, invece le piccole decisioni locali accontentano. L'intervento sull'IRPEF obbliga la politica a prendere atto che la progressività è rimasta solo sul lavoro come in termini di reddito. Certo. Su tutti gli altri lavori c'è un proliferare di imposte cedolari in cui la politica che ha deciso, secondo i saldi che doveva garantire nei 5 minuti prima di chiudere il saldo della legge di bilancio in Parlamento, di decidere su, per tipo di cespite, oltre che per tipo di famiglia, se reale o finanziario, decideva la cedolare secca a cui per fare incassi fissi sottoponeva questo o quel tipo di asset. Quindi se avete una frammentazione fiscale spaventosa che aumenta l'arbitrio della politica. L'intervento sull'IRPEF obbligava a ricondurre a una logica organica tutto questo. Quindi non è soltanto meno tasse, anche la qualità fiscale non che conta. Sarà. Il tipo di incentivi che vuoi suscitare. Invece zero, da questo punto di vista non c'è nulla. C'è qualche cosa oltre agli interventini come quelli sui giochi e così via. C'è la rottamazione, per fare cassa si rottamano anche le liti tributarie, oltre alla rottamazione delle cartelle, naturalmente non vogliono dire che si tratta di un terzo condono, ma attenzione perché una delle ipotesi scritte dall'Agenzia delle Entrate è quella per il quale anche chi ha perso, il contribuente che ha vinto i primi due gradi di giudizio, gli diamo la possibilità, se paga il 30% del petitum, di non avere il terzo a proprio favore, come ovvio. Allora, non è male così, è come se una squadra perde 2-0 a un minuto dalla fine e dice facciamo pari e patta. Noi chiediamo al professor Andrea Giovanardi, intanto salutandolo e ringraziandolo di essere con noi in questo sabato santo, chiediamogli una prima impressione generale su tutto il mix di queste cose fiscali, poi gli facciamo qualche domanda specifica. Allora, che pensa Andrea Giovanardi? Buongiorno a voi intanto e vi ringrazio dell'invito. Ma come stavate dicendo voi, mi pare che l'impianto della manovra di rientro sia abbastanza tradizionale. Abbiamo questo provvedimento di definizioni liti che io continuo a considerare un condono per la ragione ben semplice che comunque sarà anche vero che bisogna pagare tutto il tributo, però è anche vero che saltano le sanzioni e quindi siccome ordinariamente qualcuno le sanzioni amministrative le ha pagate, anzi tutti le hanno pagate, è chiaro che se oggi io consento una via d'uscita senza pagare le sanzioni, evidentemente mi sto ponendo in una logica definitoria / condonistica. Inutile che dicano di noi sorgendo quello del PD, però ok. Esatto. E quindi abbiamo questa definizione delle liti che peraltro, se vogliamo anche dirla, è anche necessaria perché deriva da un altro condono, la rottamazione dei ruoli generava iniquità tali per cui quando crei un condono, inevitabilmente per le situazioni analoghe devi aprire, non si capisce perché se io sono destinatario di un ruolo e quindi di una cartella di pagamento posso definirla, se sono invece destinatario di un atto impositivo mi è impedito. In termini comparativi quindi, un'iniquità. In termini comparativi questa apertura era necessaria, anche se poi se volete ci ritorniamo, ci sono delle criticità perché le discriminazioni, stando sempre alle anticipazioni, perché non abbiamo i testi. Ad oggi i testi, non abbiamo i testi, le discriminazioni non sono ancora risolte, ce n'è una gigantesca sulle sanzioni, cioè sui provvedimenti che hanno ad oggetto esclusivamente sanzioni. E poi è un dato di fatto, io definisco sempre, avendo a riferimento l'avviso di accertamento o comunque l'atto impositivo dell'amministrazione, ed è irrilevante che un giudice mi abbia dato o meno ragione. Quindi chi vince è trattato allo stesso modo di chi perde ai fini dell'adesione a quello che io definisco condono, potete definirla rottamazione come volete, insomma, ai fini dell'adesione a questo provvedimento di sanatoria. Molto importante, quindi direi nulla di nuovo, era già ventilato. Nel senso che purtroppo nulla di nuovo, nel senso che nulla di particolarmente buono, nulla di nuovo, cioè linea di continuità con cose non buone. Linea di continuità in un contesto, peraltro, in cui la giustizia tributaria, sto parlando della giustizia di merito, sta funzionando, se non altro dal punto di vista dello smaltimento dei carichi, sta funzionando bene e l'unico problema lo abbiamo in Cassazione, da dove ci sono 50.000 cause pendenti. Ma una definizione dei delitti non interviene sulle ragioni profonde dell'intasamento, ma forse decongestionerà un po'. No, decongestione lascia il fenomeno poi più o meno che si riforma. Ma lascia il fenomeno ovviamente più o meno che si riforma senz'altro, quindi non è un provvedimento che, come tutti i provvedimenti di condono definitori, che intervengono sulle cause. Abbiamo poi un altro provvedimento che è un'estensione, che io, di fronte al quale io sono molto così perplesso, che è lo split payment, il cosiddetto split payment, che è questo provvedimento già esistente nell'ordinamento con riferimento alle pubbliche amministrazioni, tale per cui quando io emetto una fattura nei confronti della pubblica amministrazione non mi torna indietro l'importo comprensivo dell'IVA, perché l'IVA viene versata, è una sorta di scissione di pagamento, viene versata direttamente all'erario. Vedi che a chiamarla scissione di pagamento, Andrea, però sarebbe stato troppo chiaro. Quando il governo vuole fotterci usa un termine in inglese, diciamo. Che significa drenare la liquidità delle imprese fornitrici della PA. Abbiamo pensato bene di estenderla anche adesso a tutte le grandi società. E vogliamo pubbliche. Anche parlare e chiedere al professor Giovanardi per quanto riguarda l'altra misura di stretta, cioè la riduzione da 15.000 a 5.000 euro della certificazione per quanto riguarda le compensazioni delle imposte sui redditi, che questo giochetto produrrà 1 miliardo di gettito in più per sfasatura di cassa. Che allegria! Creando problemi ovviamente alle aziende, giusto professore? Allora, le misure che incidono sull'IVA sono tre. Lo split payment di cui dicevo, giustamente la stretta alle compensazioni da 15.000 a 5.000 euro, ci vuole qui il visto di conformità, e non dimentichiamo, poi ci sarà una norma la quale dice che se il visto di conformità non c'è o se è irregolare, l'amministrazione ha il diritto di richiedere l'IVA e di che sono andato a compensare, anche se il credito è spettante ed esistente, richiedermi gli interessi e di erogare la sanzione, con la conseguenza che se pago si ricrea il credito che già avevo. Quindi vi segnalo anche questo piccolo dettaglio. Il terzo elemento, cioè la terza misura che si collega a queste, è quella stretta nell'esercizio del diritto alla detrazione oggi dell'IVA. Oggi il diritto alla detrazione può essere esercitato entro il secondo esercizio successivo a quello in cui il tributo diviene esigibile. Dalla manovra in poi, invece, questo sarà possibile solo nella dichiarazione dell'esercizio in cui l'imposta diviene esigibile. Dichiarazione che va presentata entro il 30 di aprile dell'anno successivo. Quindi, se io sbaglio a indicare un'imposta, nel senso che non indico un IVA detraibile, secondo la nuova impostazione, io non ho più la possibilità di detrarla, anche se quel credito è spettante più che spettante. Ed esistente. Allora, io su questo vorrei essere chiaro, perché adesso dobbiamo ovviamente, torniamo tra un minuto, c'è una pausa. Né lo split payment, cioè il drenaggio di liquidità ai fornitori pubblici e adesso alle società pubbliche, né il cambio dei termini di compensazione, né il mutamento dei termini della detrazione IVA, non hanno a che fare con la lotta all'elusione e all'evasione, ladri pubblici! È semplicemente cassa che lo Stato si prende. I ladri di notte cambiano le leggi così a proprio favore. Non c'entra un piffero la lotta all'evasione con tutto questo, visto che stiamo parlando con soggetti regolarmente noti, l'imponibile noto, stiamo parlando di margini di regolazione delle imposte. È semplicemente lo Stato che si fa la legge per avere più soldi per lui, ladro! Torniamo tra un po' con la voce più bassa. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. eccoci qui tornati. Dovete sapere, cari compari, che la voce l'ho anche alzata perché la scorsa settimana mi ha scritto un generosissimo ascoltatore dicendo: io lo so che lei non ha cultura, povero, povero Giannino, quindi quando, non reagisco per questo quando lei dice stato e ladro. E allora io, mi è toccato poi scrivere una letterina: guardi, se vuole gli indico alcuni manualetti in cui legge la differenza tra stato persona e stato comunità, perché lei, se è stato in questo caso, non so, è stato in che termini, un dipendente pubblico, un ufficiale dell'agenzia delle entrate, e io faccio parte dello stato comunità, dello stato persona non faccio parte. Quindi, però, per dire che le misure fin qui che abbiamo visto, quelle che toccano l'IVA, beh, insomma, non sono lotta all'evasione, no, sono reperimento di cassa. Poi ci sono delle misure, ma infatti non è ladro, qui lo stato è un truccatore contabile, posso dire, proprio un truffatore, più che un ladro. Ho capito. Però detto questo, poi ci sono delle misure che, rispetto al discorso a cui siamo partiti, cioè quel dato devastante della produttività, fanno molto discutere, secondo me. Perché la stretta che è in arrivo sull'ACE, cioè la norma di incentivo fiscale per la capitalizzazione delle imprese, soprattutto le piccole, come ovvio, e la stretta al patent box, in teoria vigente da 2 anni e mezzo, e al cui riconoscimento l'agenzia delle entrate ha frapposto un mucchio di filtri nel nord, non esaminando le richieste e non riconoscendo il patent box. Patent box significa incentivo di agevolazione fiscale per un veicolo nel quale mettere la parte intangible delle aziende, brevetti, marchi, design industriale depositato e così via, cioè tutto ciò che esattamente ci serve per spingere le imprese a investire di più in quello, oltretutto essendoci la batteria di industria 4.0 con regimi agevolati, perché con quelli si fa la discontinuità di produttività. Eppure in quello c'è la stretta. Che pensa il professor Andrea Giovanardi di queste ultime due misure? Ah, guardate, anche qui mi pare che le logiche siano le stesse di cui dicevo prima. La sensazione è che da qualche parte occorra trovare appunto gettito, e quindi il modo per trovarlo è questo. Per la verità devo dire che la stretta sull'ACE e il patent box mi sembrano, sempre in un contesto di critica, in un contesto per cui è tutto criticabile, sì, questi provvedimenti sono criticabili, tutto sommato mi sembrano meno discutibili. Ah no, rispetto alle precedenti, no no, su questo rispetto alle precedenti mi sembrano meno discutibili. Perché? Perché l'ACE, tutto sommato, diventava un'agevolazione senza fine, nel senso che il riferimento fisso, se non sbaglio al 2010, sì, comportava che l'aliquota continuava a scendere, e posso dire, io sarei più per un'impostazione per cui l'aliquota scenda per tutti. Sono d'accordo. E non solamente per quelli che magari sono partiti da una situazione di vantaggio, che potrebbe essere tranquillamente meritato, però poi, ecco, continuano ad avere vantaggi che si eterna, incrementando la loro posizione. E quindi, tutto sommato, prima o poi un limite all'ACE bisognava metterlo. Il fatto è che viene messo sempre in un contesto in cui le imprese sono in difficoltà e devono lottare per la competitività. Patent box, effettivamente l'OCSE i marchi li mette fuori, quindi anche lì è chiaro che per la nostra struttura industriale i marchi sono molto importanti, pensiamo al design, all'industria del lusso e quant'altro, però è anche vero che mettere nel patent box i marchi potrebbe essere tranquillamente criticabile. Riepilogando, tuttavia, sono sempre provvedimenti che intervengono non a favore dell'impresa, ma contro l'impresa, e quindi ogni qualvolta si dice di essere dalla parte della crescita, poi i provvedimenti che effettivamente arrivano sono questi. Ma perché, professor Giovanardi, è troppo credere che le misure tributarie, incentivo, disincentivo, interventi sulle aliquote, interventi inventandosi cedolari secche, non abbiano un esame preventivo necessario sugli impatti che si determinano attraverso la leva, incentivo, disincentivo, su prodotto, produttività, eccetera, eccetera? Perché questo nella tecnica tributaria italiana è, si riduce solo al calcolo del gettito rispetto al saldo pubblico? La sensazione che io ho da tempo è che si intervenga sempre senza una reale elaborazione e senza un effettivo confronto, se posso dire, anche con l'Accademia. I provvedimenti sono annunciati da tempo, però poi arrivano sempre pasticciati e sempre all'ultimo momento, perché mi sembra che questo sia il modo di operare. E quindi sì, tutti siamo d'accordo nel dire che i provvedimenti in materia tributaria andrebbero pensati, studiati in modo più, come posso dire, più attento e più partecipato. Però mi sembra che siamo molto lontani da questo. Le esigenze del gettito sono sempre lì a farla da padrone. E in ma secondo lei l'impressione sua... L'impressione sua è che queste misure vengano scritte, poi dirò la mia da osservatore, però la sua conta di più. La sua impressione è che queste misure, a scriverle tecnicamente all'ultimo momento, o meglio, avendo preparato delle bozze che poi all'ultimo momento diventano operative, è la struttura tecnica dell'Agenzia delle Entrate o sono gli uffici del Ministero? Io ho la sensazione che in moltissimi casi a scrivere le norme sia la struttura tecnica dell'Agenzia delle Entrate. Struttura tecnica che in ogni caso interviene collaborando, quindi le ipotesi sono due: o le scrive solamente l'Agenzia delle Entrate, ovviamente io vi dico delle ipotesi, delle sensazioni, sì, non ho elementi, come posso dire, elementi effettivi che mi dicono che sia così. La sensazione è che o le scrive l'Agenzia delle Entrate oppure le scrive l'Agenzia delle Entrate collaborando con la struttura del Ministero. Questa è la mia sensazione. Io sono pressoché ragionevolmente certo per tutte le bozze di testo su cui metto da molti anni le mani come giornalista, insieme a tanti altri giornalisti che devono fare questo mestiere, per le testate più rilevanti, cioè quelle che riescono ad avere delle fonti coltivate nel tempo, per cui hai le anticipazioni delle misure, visto che oramai non si fanno più i preconsigli dei ministri in cui ci si distribuiva gli atti per la reciproco approfondimento a livello di capo di gabinetto di ministero. Questa cosa è stata completamente abolita oramai in Italia, quindi abbiamo un processo di produzione normativa post consigli dei ministri. I consigli dei ministri sono delle finzioni di approvazione dei testi che non vengono minimamente esaminati dai componenti. In moltissimi casi è così, cari ascoltatori, ed è un problema serio perché adultera in maniera inaccettabile il procedimento normativo nella sua formazione, nel suo iter di formazione. In tutti quei casi noi abbiamo nelle materie tributarie quasi sempre esclusivamente testi su cui ci sono le impronte digitali, la carta intestata e così via, di un apparato tributario che dovrebbe stare lontanissimo per competenze dentro, oltre che per le competenze di legge, dalla produzione normativa. Almeno io la vedo così, nel senso che non riesco a capire un'Agenzia delle Entrate che ha contemporaneamente il compito della produzione normativa, cioè il diritto pieno della sua interpretazione, tranne la Cassazione, l'interpretazione si fa con le circolari dell'Agenzia delle Entrate, e che quindi chiude da sola l'intero cerchio del diritto tributario. A me pare un'anomalia, non ne conosco l'eguale in tutto il mondo, o mi sbaglio, professore? Allora, che il soggetto che sia destinato ad accertare i tributi e quindi a far funzionare la macchina amministrativa sia anche un soggetto che vada al di là della collaborazione, perché ovviamente l'Agenzia delle Entrate deve essere sentita, e quindi addirittura arrivi a stendere le norme, ma sono accuse o comunque, non so, De Mita l'ha scritto... Il professor De Mita l'ha scritto per anni, Le prime pagine sulle 24 ore, e non mi sembra sia mai stato smentito. A me pare una cosa gravissima da un punto di vista istituzionale, perché il legislatore, insomma colui che scrive le leggi, non può senz'altro avere nulla a che fare con il soggetto che le deve applicare. Può ovviamente sentire le esigenze di chi è sul campo, e su questo non ci mancherebbe altro, certo. Però ovviamente le norme non le può e non le deve scrivere. Anche perché, Andrea, questo viola il patto fondamentale della tassazione, che implica la rappresentanza, certo. Capisci? Perché se la tassazione, ovvero le norme fiscali, le scrivono funzionari irresponsabili, allora a cosa serve la rappresentanza? A che cosa serve? Ora, nel frattempo, gli abbiamo dato anche la riscossione con il conferimento di Equitalia e l'accesso a tutte le banche dati. È un soggetto unico, secondo me è un gravissimo problema in termini proprio di fondamenti del diritto naturale, del diritto rispetto al diritto positivo. Ripeto, non esiste l'IRS. non è quello che scrive le norme fiscali, non gli passa neanche per l'anticamera del cervello, nel senso che lì le commissioni, il congresso negli Stati Uniti bilancia il potere presidenziale dell'amministrazione avendo strutture di esame terze indipendenti degli effetti economici e ordinamentali delle misure fiscali, cioè ecco, quello sarebbe l'ideale verso il quale andare, un congressional budget office capace di rendere al parlamentare, che non ne sa quasi niente mai, tranne che non sia un accademico di queste materie, in grado di poter obiettare e capire prima, poi si vota con alzato di mano testi prodotti dall'Agenzia delle Entrate. Oimè, viva viva viva. E allora intanto grazie al professor Andrea Giovanardi e noi torniamo tra un minuto. Della Belva. Ed eccoci qua con questo introibo felliniano, questo sabato santo che abbiamo santificato in nome delle cifre, delle entrate e delle spese delle prossime manovre di finanza pubblica. È un giorno in attesa della resurrezione, quindi ancora di tristezza. Infatti triste sono state le nostre considerazioni, ma ora alziamo lo sguardo verso il paradosso che fa sorridere, perché questa è la musica di Fellini e quindi abbiamo con noi, cari compari, anche oggi lo ringraziamo in questo sabato santo, Udo Gumpel, la nostra voce dal profondo del rigore del nord. Come stai, Udo? Sì, questa è una bella introduzione, la voce del rigore dal profondo nord. Sì, però tu sai che c'è sempre qualcuno più a nord di te, no? I danesi, che sono miei parenti, sono più a nord di me, che sono del nord della Germania, a noi ci vedono come napoletani, no? Come napoletani. Beh, del resto, adesso non vorrei dire, ma nei secoli, dalle tue parti, la Lega Anseatica, Amburgo, eccetera, eccetera, danesi vi siete fatti belle guerre anche nel Baltico, insomma, non eravate proprio sempre vicini di casa amichevoli, eh? No, voglio dire che in quel periodo a cui alludi ero da parte dei danesi, no? Perché la mia famiglia è di là, dunque i danesi si chiamavano anche vichinghi e normanni, northmanner, e facevano delle volte delle visite nel sud, portavano appresso un po' di souvenir, moglie, perciò qualche ancora moglie. Oggi tra i danesi ogni tanto salta fuori una proprio mora, no? Perché miracolo è la genetica, no? Perché voi siete si fatica, cari compari, si fatica a vendere ai nostri ascoltatori che ad Amburgo, capisci, ci sono tutti questi neri meridionali. Però, vabbè, comunque, detto questo, Udo, senti, noi abbiamo, innanzitutto dobbiamo chiedere un miracolo, ma te lo chiede anche Matteo Renzi, perché devi sapere che Matteo Renzi è molto preoccupato, infatti ha criticato Padoa, Calenda, perché lui deve vincere le elezioni in Italia. E allora è molto preoccupato perché non riesce a capire come diavolo può essere successo. E fino a due settimane fa, ne parlammo anche qua, era già morta la Merkel, c'era Schulz che aveva fatto il candidato socialista, che aveva fatto una meravigliosa, spettacolare ripresa di consenso, era in testa ai sondaggi. Adesso Renzi è lì che dice, ma dovete spiegarmi come fa la Merkel, che è tornata, il suo partito rispetto alla SPD è tornata ad avere 6 punti di vantaggio, lei è tornata ad averne ancora di più di vantaggio come candidato premier su Schulz. E allora noi, Udo Umpel, a nome di Renzi dobbiamo chiederti di spiegare come il miracolo, perché sennò Renzi deve replicare il miracolo della Merkel. Non solo, ma anche i sondaggi fra i 18 e i 24 anni dicono che la grande maggioranza vota per la Merkel, ma è incomprensibile. E non votano per Renzi, cioè, in Italia. Qual è il segreto del successo? Spiegaci, illuminaci, Udo. Ecco, allora, non è il di dietro della Merkel, no, la grande spiegazione, perché di quello era neanche Berlusconi un grande ammiratore, però come abbiamo capito da Malta si è scusato. Che erano solo male parole, dicerie, le cose che dicono per far dispetti a Berlusconi, in realtà lui l'adora, e come potrebbe dire diversamente, ma sapete una cosa, i giovani tedeschi vivono nel mondo del lavoro, perché voi sapete che la disoccupazione giovanile è a poco zero, trovano tutti un lavoro, circa l'80% delle persone che sarebbero in età lavorativa lavorano, in Italia sono 57%, questi sono in soldoni circa 15 milioni di persone in meno che lavorano, però è dato questo, partendo da questo dato, i giovani hanno un senso di realismo e loro non amano le persone che promettono mare e monti, naturalmente mobilitato. Udo, ma tu non puoi pretendere che noi diamo, io tu non sai quanto mi arrivano le lettere che dicono che io ospito la voce del nemico, ma se vi vuoi raccontare che i giovani invece vivono il mondo della realtà invece che quello della fiction, è ancora più dura vendere questa roba, però è così, cari ascoltatori, mi prendo la responsabilità di dire che anch'io la penso così. Siamo dei matti, Udo. Ma siamo dei matti perché in realtà non c'è nessuna ricetta miracolosa, non c'è nulla, non c'è la pietra della saggezza, nulla. La Merkel è semplicemente una persona che, come si potrebbe dire, incarna il buon senso anche economico. Allora, in un paese che cerca di vivere, come peraltro fanno molti paesi del nord, danesi, svedesi, cercano di trovare la via della moderazione, la via mediana, no? La via che non è un estremismo. Allora, gli estremisti erano per un certo periodo ben visti, quelli della AfD, perché loro mettevano il dito nella piaga della incontrollata accoglienza che era andato, tracimava oltre ogni limite, però adesso stanno lottando per la sopravvivenza intorno al 5%, dunque sono diventato un fenomeno da circo, nessuno li prende più sul serio, i due partiti maggiori insieme capitalizzano già il 70-75%. Dunque si ritorna al bipartismo, dunque o Merkel o Schulz. Schulz ha fatto il suo bene, però lui è molto vago nel programma sociale, lui promette giustizia, che peraltro la Germania si potrebbe permettere una maggiore giustizia sociale, aumentando anche di molto gli stipendi, anche delle fasce più deboli, e infatti questo è uno degli argomenti della campagna elettorale in Germania. Oppure, come la Merkel preferisce, di abbassare molto la tassazione, che è già sull'IRPEF circa 10% meno dell'Italia, tant'è vero che molte aziende fuggono dall'Italia perché dicono la siamo tassati meno, no? Cioè, questa follia in Italia che si chiama IRAP e altre tasse, che ti tassano il monte ore di lavoro. Dunque il monte ore robot non ti tassano, ma monte ore persone umane. Cioè, quando uno vorrebbe farsi male dovrebbe venire in Italia per capire il mercato del lavoro, no? Non c'è dubbio. Cioè, il modello del fallimento del mercato del lavoro è questo. Sì. Allora, caro Matteo, io spero che il messaggio sia chiaro. Che noi, ascolta, Udo, ascolta. I tuoi amici privi di ogni critica nei tuoi confronti ti rivolgiamo. Per favore, fallo per noi. Per favore, guarda a questa lezioncina della Merkel. Basta essere realisti. Basta non dire ai ministri con cui hai concordato le misure, come hai fatto con Calenda, che sono misure concordate con Berlusconi, perché la gente lo sa che non è vero, se lo ricorda, e poi non ti vota più. Come vogliamo fare con questa cosa? Allora, no, io adesso sto scherzando, ma scherzo di fronte al fatto che in Italia appare rivoluzionaria questa cosa che ha spiegato Udo con tutta la serietà, che è come una via oggi impraticabile, che si chiama banale buonsenso. Serietà, realismo. Esattamente. Ma quando dicevamo prima, questi vogliono ottenere più consenso aumentando la spesa pubblica, aumentando le prebende. Non sta funzionando così nel resto del mondo necessariamente. Lo vediamo che i giovani queste specchietti per allodole non li apprezzano. I giovani tedeschi ci stanno dando una bella lezione, secondo me. Ecco, allora, intanto buona Pasqua al nostro amico Udo Gumpel, e riflettete domani, ascoltatori. Buonsenso, saggezza, la realtà da cui non scappare, come ci insegna Mario Seminero. Esatto. Questa esatto. È tutto lì la grande scelta che dobbiamo essere capaci di tornare a percorrere in questo paese. Grazie Udo, torniamo tra un minuto. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta... della belva. Ed eccoci tornati ecumenicamente in questo sabato santo, cari compari dei Conti della Belva, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Mario Seminerio. Ma Carlo, Alberto, ma ti rendi conto che la festività pasquale, che effetto miracoloso ha condotto e ha realizzato? Mario oggi era buonissimo. Mario, buono, sì, Mario non quasi ha... commestibile. No, ma è troppo buono. Sicuramente adesso in questi pochi. Ci sarà piaciuto il DEF. Secondo me si è appassionato. Sono, sì, sì, sono... erano numeri, numeri all'otto, fondamentalmente. Si è quasi appassionato. Sono un agnellino di cioccolato. Quasi, quasi ti facciamo, ti facciamo coccolare da Berlusconi. Sicuramente. Sì, esatto. Pensate a Mario Seminero come agnellino di cioccolato, vuol dire che dentro c'è una sorpresa esplosiva. Allora Renato, come stai? Renato Cifarelli. Io bene, ma vi sembrate diventati ecumenici, ragazzi. Ma, se, ma siamo cioè, diventati oggi la Pasqua, diciamo... la Pasqua che vi fa diventare sì. ecumenici. Eh sì, e a te cosa porta la Pasqua invece? Ah beh, a me la Pasqua porta un giorno di non produzione, che per noi imprenditori è sempre... Bravo, con la produttività che scende almeno dalle tue parti, tieni alto l'onore del paese. Mio Dio. No, vabbè, a parte gli scherzi, no, vabbè, a me la Pasqua porta le uova che non dovrei mangiare. Lo so. A parte questo invece, no, oggi vi volevo raccontare una cosa carina che è successa, io ogni tanto uso la cronaca locale. Certo. E non posso usare quella aziendale per evidenti ragioni, ma ne avrei un po' da raccontare anche lì, però su quella tralasciamo. La cronaca locale ha visto 7 ispettori dell'ufficio, quello degli ispettorato del lavoro, proprio Pavesi, già. Proprio Pavesi, i quali ispezionavano random, nel senso che dal GPS che li ha messo sulla macchina, diciamo che non erano proprio dove dicevano di essere. Eh già, non stavano svolgendo le ispezioni, facevano i cazzi loro, insomma, in parole povere. No, ma la cosa più divertente in assoluto era il titolo del giornale locale di oggi, che gli ispettori si difendono, noi non abbiamo orario di lavoro. Esatto. E allora a me questa cosa mi fa un po' impazzire, perché l'idea di questi ispettori del lavoro, che notoriamente una delle loro più grossi divertimenti è quelli di arrivare e guardare se quelli che hai part time sono ancora lì 5 minuti dopo che è finito l'orario del part time, oppure tutte queste cose qua, non hanno l'orario. E certo non c'è, sono liberi. Quelli che devono controllare che gli altri non sgarrino sugli orari, non hanno l'orario. E allora questa cosa... A me e il bello è che negli accertamenti, perché sono stati accertati e monitorati dai carabinieri in funzione di polizia giudiziaria, dalla locale procura, si gonfiavano pure i rimborsi, perché non solo non erano dove dovevano essere, ma poi moltiplicavano i costi dei rimborsi e le spese sostenute, naturalmente girando e andando in tutt'altri posti. E non credo che sia per voi imprenditori della zona una gran novità. La novità è vedere che si è intervenuti. Però la domanda che ti faccio è: tu sei in grado di spiegarmi, perché io ho avuto un Twitter un po' di incazzatura, ho fatto una domanda retorica, io so perché qual è la risposta, però hai visto che sono stati con l'ordinanza cautelare, per cui è intervenuta l'autorità giudiziaria, sospesi per un anno dalle pubbliche funzioni e quindi sospesi in realtà dalla funzione anche di ispettori. Ma non sono stati licenziati e lì per lì, come dicevano che avveniva con la riforma Madia. A te che suscita questa cosa? Che neanche quello basta a farsi licenziare? Che dice l'imprenditore Cifarelli? Beh, l'imprenditore Cifarelli ormai è piangente, nel senso che ha capito che da questa cosa qua non usciremo mai. Cioè, personalmente non ci credo più. Non ci credo più perché vedo che mentre pur con mille difficoltà e spesso con esborsi molto alti, le aziende private riescono a portare avanti, in caso di dipendenti infedeli, almeno la pulizia, nelle aziende pubbliche ciò non avviene. E la cosa che fa arrabbiare soprattutto è che questo non fa altro che portare a un sistema dove tutti a mano si adegueranno a non fare nulla. Esatto. Perché cosa succede? Allora, se tu togli le mele marce, a me è successo un po' di anni fa che stavo visitando un'azienda in Svezia e gli ho detto: ma voi come fate con quelli che non lavorano? E loro mi hanno detto: anche qui abbiamo tutti i problemi che avete in Italia, figurati in Svezia. abbiamo tutti i problemi che avete in Italia, licenziare le persone, lasciarle a casa, ridurre il personale, eccetera, eccetera. Però quello che succede qua è che siccome noi diamo dei target di produzione, eccetera, eccetera, ai team, è lo stesso team, cioè sono le stesse persone che se qualcuno non funziona segnalano, fanno in modo di emarginarlo e fanno in modo che questo qua piano piano se ne vada. Qua invece ormai stiamo in una situazione in cui stiamo lavorando per fare in modo che tutti si adeguino al fatto di non fare nulla, esattamente, che è poi il segreto per cui la nostra produttività invece di aumentare diminuisce. Sì, perché la componente di come si lavora, non c'è solo la componente tecnologica dei bassi investimenti, rendimento del capitale, le tecniche di gestione e organizzazione del lavoro, come si lavora e poi è una componente fondamentale. La risposta alla domanda è che io so perché non sono stati ovviamente licenziati malgrado gli annunci, perché è rimasta nella norma della riforma Madia, è semplicemente cambiato da 60 a 30 giorni, addirittura erano 120 prima, il numero di giorni del procedimento disciplinare. Ma quelli come me che chiedevano, in presenza di flagranza di reato accertata dall'autorità giudiziaria, saltiamolo il procedimento disciplinare, perché come è evidente, no? In quel caso si proceda subito al licenziamento? No! Ecco, ed ecco perché infatti non sono licenziati nemmeno i 7 ispettori del lavoro che fanno i cazzi loro, si gonfiano i rimborsi. È giusto, accettabile, ha senso? Risposta, secondo me, no. Ma siccome è Pasqua, un pensierino pasquale, uno per uno dei nostri compari. Auguri a tutti. Sì, mi accodo. No, siete tutti troppo buoni. Renato, anche tu, un pensierino di Pasqua, dai. Un pensierino di Pasqua? Mangiamo l'agnello. Allora, per il mio pensiero... Ma come, non diventerai mai presidente della Camera dei Deputati? Dai, esatto, il mio pensiero... Presidente, sentite, della Camera dei Deputati. Mangiate domani solo cose con le più basse aliquote IVA. Lo Stato non mi avrà neanche a Pasqua. Buon auguri a tutti. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finito.